GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. La settima giornata elegge la capolista solitaria della A. È l'Inter di Mourinho che all'Olimpico spazza via la Roma. 4-0 per i nerazzurri con la doppietta di Ibrahimovic e le reti di Stankovic e Obinna. Il fuoriclasse svedese a Sky Sport. Sono abituato di giocare così e poi posso giocare anche 4-4-2 o 4-2-4 come giochiamo qualche volta. Però il sistema non è importante, importante come si entra in campo con mentalità. Siamo entrati per vincere, volevamo vincere per forza e abbiamo fatto tutto per vincere. Capitan Totti sul momento nero della Roma. Questo momento penso che preoccupa più che altro la classifica. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di essere in quella posizione, però penso che avendo questo organico e questa squadra, penso che prima o poi risolveremo tutto la possibilità che abbiamo dentro il gruppo. Intanto vola il Catania che supera 2-0 il Palermo nel derby siciliano. Il tecnico degli Etnei, Zenga. Per noi è un sogno essere lì ed è bello comunque continuare a cercare di prolungarlo questo sogno il più possibile. Lavoro con tutto uno staff che mi dà una grandissima mano. Poi i giocatori vanno in campo e sono loro che interpretano e fanno le cose come devono essere fatti. L'Udinese pareggia 2-2 in rimonta con Lecce mentre il Bologna manda KO la Lazio per 3-1. Il Milan batte 3-0 la Sampdoria. Doria con una doppietta di Ronaldinho, il primo gol su un rigore contestato con espulsione del doriano Lucchini. Sentiamo Carlo Ancelotti. La Sampdoria ha difeso bene e ha agito molto bene in contropiede, abbiamo incontrato le solite difficoltà, la differenza è che in questo momento riusciamo a mantenere più equilibrio, più attenzione, poi sappiamo che la qualità davanti ci può permettere magari di fare gol in qualsiasi circostanza. Gli altri risultati: Genoa-Siena 1-0, Torino-Cagliari 0-1, Chievo-Atalanta 1-1. In Formula 1 a Shanghai trionfa Lewis Hamilton davanti ai ferraristi Massa e Raikkonen. Ora l'inglese della McLaren ha 7 punti di vantaggio proprio su Massa a una sola gara dalla fine. E Felipe si giocherà tutto proprio nel Gran Premio del Brasile. Sicuramente la torsida spinge, no? Aiuta. Però impossibile non è la parola giusta, quindi non è impossibile, dobbiamo alzare la testa, continuare a essere uniti come siamo e fare il migliore per provare. Penultima tappa anche per il moto mondiale. A Sepang, in Malesia, il terzo posto nella gara vinta dall'Iberico Bautista regala a Marco Simoncelli il titolo mondiale della 250. È stata durissima, non so se perché non vedevo l'ora che passassero gli ultimi giri o cosa, ma non ce la facevo veramente più. Poi soprattutto dopo che mi sono fermato è stata durissima. In MotoGP domina ancora Valentino Rossi, che conquista la nona vittoria stagionale davanti a Pedrosa e Dovizioso. Sono contentissimo, mondiale così bello e andava vinto con 9 gare secondo me perché i miei minimo. Più bei mondiali sono stati vinti con 9 con 11, 8 era un numero che stonava un po', almeno 9, poi adesso andiamo a Valencia, vediamo. Nella seconda giornata della A1 di basket, vittorie per Siena, Cantù Avellino, Montegranaro, Teramo, Pesaro. Colpo grosso della Virtus Bologna che vince in trasferta a Milano. Il virtussino Giovannoni. Il nostro grande merito è stato non credere che la partita era persa quando siamo andati meno 20. Siamo rimasti lì con la testa e abbiamo preso confidenza nella partita. La partita è nelle nostre mani poi. Chiudiamo con la pallavolo nella 1 maschile. Macerata batte Perugia e resta in testa dopo la quarta giornata. Tra le donne guida Pesaro, KO Novara e Perugia. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Un saluto da Dario Ricci.